Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, 4 ottobre, giorno di San Francesco. Per noi di Radio 24 il giorno del compleanno, il numero 11. Non siamo rimasti molti tra combattenti e reduci di quel giorno, ma insomma qualcuno c'è ancora. Di sicuro di fronte a me c'è un signore che quel giorno era qui a far da levatrice, direi, no? Poi ci spiegherai come. Si chiama Marino Bartoletti. Buongiorno Marino. Buongiorno Gigi, buon compleanno a te e a tutti gli amici di Radio 24. Grazie. Levatrice ti funziona come definizione, come etichetta? Mi onora. Ti onora. Non sono stata l'unica levatrice, in realtà facevo parte di un gruppo di lavoro al quale più di 12 anni fa venne commissionato questo miracolo. E per il mio 10, 15, 18% sono fiero di aver contribuito a far nascere questo bambinone che comincia a diventare adolescente. Comincia ad avere i suoi anni, oggettivamente. Beh, non c'è nulla di autocelebrativo in questo, intendiamoci, però c'è soltanto il piacere di ricordare, no? In fondo, giustamente, anche di rivendicare un cammino, uno spazio, affetti, conoscenze. Siamo appena stati al piano di sopra a salutare Elia Zamboni, socio fondatore, allora direttore della radio, oggi vice direttore del Sole 24 Ore. Insomma, abbiamo i nostri penati, no? Un po' tutti, e tu ne fai parte. Guarda, io direi che è meglio che non annoiamo troppo i nostri amici, però di due o tre cose nella mia modesta e ormai lunga carriera vado fiero. Alcune sono palesi, cioè la direzione del Guerin Sportivo, l'ideazione di quelli che è il calcio e sinceramente per il piccolo contributo che ho dato la nascita di questa creatura di cui tutti quanti dobbiamo essere orgogliosi. Molto carino questo, vedi come sono i nostri ascoltatori. Anch'io c'ero dal primo giorno, scrive Valentino da Udine, no? Direi che, allora, a parte la capacità di digitazione che è nettamente superiore alla mia, perché ha mandato un sms veramente in 50 secondi o poco più, però... Possiamo svelare un segreto? Sì, come no? I messaggi della prima giornata erano finti, perché ancora non avevamo radioascoltatori. Certo. E ci telefonavano dalla redazione e dalle cabine di regia. Adesso mi sembra di aver capito che è molto difficile contenerle, no, le lettere, qua le sms. Siamo veramente in tempo. Poi tu non è la prima volta che ci torni. Ricordiamo Dario Colombo, invita un ascoltatore, lo ricordiamo sì da vivo, intendiamoci bene, perché qua non è qua oggi, ma insomma combatte insieme a noi. Ricordiamo che è stato uno dei cofondatori, no, per quello che riguarda la rubrica sportiva. Beh, nel momento in cui, come dire, assegniamo la rubrica sportiva, si pensò che sarebbe stato bello dargli in mano due straordinarie voci complementari, una era la tua e l'altra era quella di Dario Colombo, e per i primi anni vi alternaste. Adesso è felicemente monogama la tua rubrica. Sì, quasi monogama, poi adesso ci sono altri giovani che scalpitano, sono cresciuti come Carlo Genta, che è molto bravo. Uno che era cresciuto molto bene, che era Fabio Tavelli, nel frattempo ha preso altre strade, però ogni martedì ha il suo appuntamento con noi, con il calcio internazionale come minimo, ha seguito i mondiali molto vicini a noi. Vabbè, stoppiamo il reducismo. Dunque, da questo fine settimana io ti sottopongo 3-4 spunti, no? E io la cosa che ho ricavato, che mi ha colpito di più, non è successa ieri sera, anche se ne sono successe che mi hanno colpito, ma è stata la posizione di Ronaldinho sabato sera, perché se Allegri, secondo me, lo ha rischiato in quel ruolo, è tornato a metterlo in posizione centrale, vuol dire che A, Ronaldinho se la sente, B, Allegri comincia a crederci, C, se Ronaldinho se la sente e fisicamente regge più o meno come l'altra sera, credo che Milan diventi un pericolo leggermente più alto. Sì, c'è una lettera D che Allegri a fine anno corre il rischio di essere, come dire, contestato dalla presidenza, ma questo è un altro discorso, certo, naturalmente. Certo. Però sta dimostrando grande indipendenza, grande personalità, e sta per nulla tradendo le aspettative che qualcuno giustamente ha riposto su di lui. Cioè, c'erano dei dubbi se il ragazzo, una volta buttato in piscina, avesse dimostrato di saper nuotare. Beh, Allegri sa nuotare. A questo punto, questa squadra che era data per non si sa che cosa quando è nata, che ha improvvisamente assurta fra le squadre favorite dopo un'improvvisa ed estemporanea ma felice campagna acquisti, che ha avuto un bradisismo negativo dopo le primissime giornate, adesso si riallinea assolutamente per essere, se non in pole position, nella prima fila di questo ideale Gran Premio del campionato. Certo. Da ieri sera invece, per quello che riguarda, subito la prima cosa che mi ha colpito per quello che riguarda la Juve, forse se la salute lo regge, perché Aquilani è uno un po' fragilino di salute, parlo di salute complessiva, no? Muscolare, eccetera, ma forse la Juve ha trovato il centrocampista creativo che le mancava, quello che non ha bisogno di tenere troppo la palla tra i piedi, come più o meno vale per tutti gli altri, ma quello che ha la testa alta e la gioca di prima. Guarda, Aquilani è la metafora di una crescita societaria alla quale tutti dobbiamo guardare con molto rispetto, perché la Juve, meritatamente o non meritatamente, era finita nel baratro morale che tutti conosciamo. Ha attraversato, lei sì, dei bradisismi piuttosto pericolosi. Quest'anno ha ritrovato la strada e Aquilani ne è la metafora, mica peraltro, perché la Juve ha dimostrato che finalmente sa comprare le persone giuste, ingaggiare le persone giuste da mettere al posto giusto, e quest'anno non ne ha sbagliate tanto. No, al momento sono perlomeno da metà campo in avanti, poi forse da metà campo all'indietro. Guarda, possiamo, sì, certo, sì. Però è chiaro che Roma non venne costruita in un giorno, in questo caso la Juventus non viene costruita in un giorno, però grosso modo la Juventus ha puntato la bussola in una direzione virtuosa, cosa che da qualche anno, anche non per colpa sua, per quello che era accaduto, indubbiamente non le accadeva. Sull'altro fronte, premesso che 1-0-0 ormai è un risultato negativo per tutti, no? Per tutte e due che gioca, ma è chiaro che è un risultato più positivo per la Juventus che non per l'Inter. Mi ha anche colpito il fatto che una partita attesissima, la vera partita di cartello, forse di girone era andata, si è vinta 0-0 come capitava una volta quando eravamo giovani noi, perché una volta le partitissime una su due finiva 0-0, no? Oggi è un evento rarissimo. Guarda, Brera diceva che 0-0 è il risultato perfetto. Devo dire che poi non è stato così imperfetto questo risultato, perché come si dice, come si diceva, è mancato il gol, però indubbiamente non è stata una partita di Serie B e non è stata una partita che ha tradito le attese. È stata quasi una bella partita, anzi direi una bella partita anche dal punto di vista estetico, a dispetto di premesse abbastanza ineleganti che l'avevano preceduta. Sul campo mi sembra che si siano comportati tutti abbastanza bene, anche l'arbitro, diciamolo per una volta. Si è comportato bene Banti, si sono comportati bene i giocatori, si sono comportati benissimo gli allenatori anche alla vigilia, stemperando, perché ci sono due signori allenatori, è probabile, due allenatori signori è sicuro che siano, no? sia Benitez che Del Neri. Senti Fulvio che dice: anch'io c'ero il primo giorno, come faccio a dimenticarlo, era in colonna sulla Milano Meda e facendo zapping ho scoperto Radio 24. Le colonne sono state la nostra forza, perché sennò chi ci scopriva? In buona parte lo sono ancora, perché poi comunque la radio è proprio in quei momenti che diventa indispensabile. Prima del primo intervallo, che poi sarai tu ad annunciare perché te lo ricordi bene, visto che eri stato tu tra i fondatori di questo clock, no? Tra i brevettatori di questo quadrante orario, mi pare che l'Inter sullo sfondo abbia qualche problemino serio ambientale. Cioè, se il sabato precedente Chivu fa una piazzata pazzesca perché Eto'o davanti a lui non copre, e se ieri sera un signore come Benitez dice: caro Muntari, si accomoderebbe in tribuna per cortesia, questo piglia e va a casa, allora sembra ritornare indietro di qualche anno, quando quella che mancava era la società. Mi sembra che negli ultimi giorni la società si sia fatta viva, se c'era da meritarsi la tessera del dirigente, voglio dire, no? Da un certo punto di vista, ma da questo punto di vista mi sembra che batta qualche colpo a vuoto. Allora, la bontà cristiana ci dice di ricordare che ieri Moratti era in America per festeggiare legittimamente il matrimonio della figlia, questo, quindi non poteva vigilare su Montari, ma questo è poco più che una battuta. Più seriamente si può dire che non è facile gestire l'anno successivo a un trionfo, e che trionfo, perché l'Inter ha vinto in una volta, in un anno, tutto quello che non vinceva da secoli. Certo. E quindi questo è un momento di involuzione. Io mi fido molto di Benitez. Guarda, io sono stato un murignista per tante cose, l'ho molto apprezzato per quello che faceva sul campo, mi sono molto arrabbiato per due cose: per la ineleganza, chiamiamolo così, con cui ha cavalcato certe situazioni, la codardia con cui ha abbandonato, mi verrebbe da dire intelligentemente, avendo capito che non poteva far di più, questa società. Credo che l'Inter abbia un allenatore non inferiore a Mourinho dal punto di vista tattico, sicuramente molto più accettabile dal punto di vista della presentabilità. Mi fido di lui, mi dispiace che non ci sia Oriali al suo fianco, perché questo potrebbe aprire un ponte di dibattito che, se vuoi, anche apriamo. Cioè, quando tu parli di crisi societaria, evidentemente è una crisi di trade union fra la società e lo spogliatoio. Direi di sì. Dobbiamo fare il primo intervallo. Ti ricordi cosa ci avete deciso di piazzarci verso il primo quarto? Guarda, me lo ricordo da ascoltatore fedelissimo, perché questo è il momento che, quando si è in colonna, si vuol sapere come va il traffico in Italia. Quel lunedì 4 ottobre 99 si era appena giocato, per esempio, un Lazio-Milan che era finito 4-4 con 4 gol di Shevchenko. L'Inter aveva battuto il Piacenza, la Juventus 1-0 il Venezia. In testa c'era l'Inter, 4 ottobre 99, ripeto, con 13 punti, seguito da Roma, Lazio e Juventus. No, da Roma e Lazio a 11, da Juventus a 10. Curiosità, faccio un'eccezione adesso, giusto perché c'è qua un forlivese amico. Scrive Massimo Magnani da Forlì, e quindi mi spiace, ma devo leggere questo messaggio. Per favore, lega questo SMS. Sono tifoso di Rossi da una decina d'anni, ma essendo forlivese sto cominciando a essere solo tifoso di Dovizioso. Ma si può essere più sfortunati, eccetera, eccetera. Marino, te la giro per competenza territoriale, ma anche, ma anche, come dire, di competenza vera di motori. Puoi farmi parlare di motociclismo? Guarda, intanto apro dicendo che ieri ho passato una giornata bellissima all'autodromo di Imola ad assistere alla rievocazione storica della 200 miglia, e questo amico che ci sta scrivendo probabilmente sa come tanti altri di cosa sto parlando. Vedere in prima fila Roberts e Agostini con la stessa moto del 1975, beh, mi ha stimolato grandissimi sentimenti. Dovizioso è un ragazzo che penso abbia molte possibilità di arrivare sulla soglia del titolo mondiale entro un paio d'anni. La Honda si deve ricordare che gli ha dato una moto ufficiale e confermargliela. Il prossimo sarà un mondiale diverso, perché chi avesse in piccola parte come me dubitato delle capacità di rigenerazione di Valentino, ieri si è ricreduto vedendo la sua vis agonistica. Il prossimo sarà forse uno dei più bei mondiali della MotoGP da che esiste questa categoria. La passione si sente, per il famoso slogan di... Sì, devo anche dire che ho sentito un telecronista dire che Dovizioso è un pilota emiliano. Per favore, non confondiamo l'Emilia con la Romagna, per tutto l'amore che porto all'Emilia, no, dove vivo. No. Ci sono dei limiti per tutto. Senti, Zambrotta che torna in nazionale, sinceramente, vedi che comincia a sghignazzare, però mi ha un po' scioccato, sinceramente, perché... I casi sono due: o si rinnova, secondo me, seriamente, o si rinnova o si mantiene più o meno. Se si deve giocare, non so, una partita decisiva di qualificazione per non so che, e ti manca un ruolo determinato, che Zambrotta, sinceramente. Guarda, è un inatteso rigurgito di pragmatismo da parte di Prandelli, che io, come te, credo, stimo moltissimo, non soltanto dal punto di vista umano, è fin troppo facile, ma anche dal punto di vista tecnico e tattico. Non l'ho capito, aspetto che ce lo spieghi, forse aspetta Santon, o forse in questo momento bisognava tappare un buco. Zambrotta, devo dire, per totale onestà intellettuale, che non è stato uno dei peggiori del mondiale che abbiamo discutato, anzi il suo dovere l'ha fatto. Però c'è un momento della vita, e ce lo insegna persino chi non ha saputo essere lucidissimo in quel momento, tipo il grande amico Bearzot, in cui bisogna veramente tirare un sipario sopra al passato. Ora, non è questa la metafora sulla quale ci dobbiamo incaponire, perché Zambrotta è un fior di giocatore e un fior di ragazzo, però potrebbe essere il ditino nella crepa di qualche tentazione che forse Prandelli dovrebbe respingere. Poi sarà il migliore in campo, poi farà ancora dei campionati meravigliosi, poi gli auguro di fare anche il prossimo mondiale a Zambrotta, però mina leggermente la coerenza granitica che Prandelli ha dimostrato fino adesso. Sono d'accordo, in tutto questo Zambrotta non c'entra, evidentemente, c'entra una scelta, no? che mi sembra in questo momento discutibile un po'. Cioè, anche Vicini nell'86 sarebbe stato tentato di richiamare tanti giocatori dell'era Bearzot, e dolorosamente e scientemente non lo fece, perché bisognava voltare pagina. Poi ripeto, parliamo di un ragazzo che è meraviglioso e di un giocatore che ha ancora grandi potenzialità, quindi lui diventa una metafora inconsapevole del nostro discorso. Certo, segnalo agli amici che stanno cominciando a premere al centralino che tra qualche minuto Marino ci lascia, nel senso migliore della parola, ovviamente per impegni pregressi, e quindi ci sarà poi più spazio per voi e per i vostri interventi del lunedì. Io credo che cominci a esserci a Roma non più una questione Totti o una questione Ranieri, ma una doppia questione che riguarda sia Totti che Ranieri, nel senso che io sono un totiano dalla nascita, ero sempre rivendicato. Oggi mi sembra in condizioni sinceramente un po' imbarazzantine lui, proprio nel senso che non gli riesce nulla, e magari è solo un momento passeggero, ma non so quanto continuare a esporsi gli faccia bene. Dall'altro continuo a vedere scelte iniziali e soprattutto partita iniziata di Ranieri che definire imbarazzanti è di nuovo un mezzo eufemismo. Tu che dici? Dico che sia un imbarazzo a monte, perché quando questa società, che comunque navigando mari in tempesta ma sempre attraversati con grande lucidità, ha cominciato a scegliere Adriano, mi è difficile capire quale fosse la logica strategica di questa scelta. Allora già in estate evidentemente dava segni di turbamento. La storia ci insegna, e i nostri capelli bianchi ci confermano, che quando un grande leader di una squadra squadra, si è messo in rotta di collisione, o chiamiamola come vogliamo, ma insomma sappiamo di cosa si tratta, con l'allenatore. In genere il leader è rimasto e l'allenatore no. Meno. Vedo Ranieri un po' diverso da quello che ricordavo io, è un allenatore che stimo molto, moltissimo. Anch'io. Ha fatto cose molto importanti, qualcuno dimentica persino la salvezza del Parma, che è stato uno dei suoi capolavori, no? Ha fatto cose misconosciute alla Juventus, e certo. Dio sa quanto qualcuno lo abbia rimpianto. Ha fatto cose importantissime alla Roma, portandola forse al di là dei suoi meriti tecnici alla soglia dello scudetto. Però quest'anno lo trovo confuso, lo trovo anche impresentabile in certi atteggiamenti che non gli appartengono. Che non gli appartengono, infatti, è strano, cioè come se fosse vagamente fuori di sé. Anche questo è un sintomo di sofferenza, probabilmente. Sì, di sofferenza molto, molto probabile. Acuita dal fatto che nell'altra più piccola parte di Roma sta succedendo qualcosa di assolutamente inatteso. Allora io te la metterei così la domanda: se l'anno, e dai primi segnali lo potrebbe essere, se è l'anno in cui la favorita tradisce, o comunque la favorita perde qualche colpo, e quindi se è l'anno di un possibile outsider, tra gli outsider che sono tutti rispetto all'Inter, ci sta anche la Lazio? Immagino che tu esiga da me la sincerità. Sì. Non ci sta la Lazio. Non, cioè, la Lazio farà e sta facendo un buonissimo campionato. La Lazio, e da qui non capisco sinceramente tanti atteggiamenti sgradevoli nei confronti del suo presidente, che alcuni li chiama ma alcuni non li merita, perché ha salvato questa società dalla bancarotta, l'ha portata a vittoria importante negli ultimi anni. Però se dovessi vedere nella sfera magica di quello che può essere questa stagione, fermo restando che può essere un anno da wild card, perché ci sta ogni tanto, credo proprio che questa wild card non tocchi alla Lazio, a cui però auguro di piazzarsi almeno nelle prime quattro, se lo meriterebbe per quello che ha fatto negli ultimi anni, se lo meriterebbe per la costanza del suo presidente, se lo meriterebbe quel galantuomo del suo allenatore, e se lo meriterebbe anche la campagna acquisti, perché mentre la Roma comprava Adriano, questi compravano Hernanes, mi sembra che avessero visto molto lontano. Ho l'impressione di sì, fermo restando che oggi Mauri è probabilmente uno dei primi tre giocatori del campionato, no? per come sta rendendo, per l'intelligenza che ha sempre avuto sul campo. Oggi è sorretto da una grande condizione, magari dalla raggiunta maturità, magari dall'asse proprio con questo Hernanes che si è visto ieri sul gol. Ci sono delle alchimie, però prima che tu te ne vada, non posso risparmiarmi la cattiveria di farti parlare bene del Cesena, per esempio, no? te forlivese del Cesena, io romagnolo. Sì, no, certo, del Cesena, ma intendo dire del Chievo, del Brescia, perché adesso un po' alla volta le grandi è ovvio che verranno fuori, ma questo primo mese ce l'hanno riempito di emozioni, di curiosità, proprio queste squadre. Questa è la rivincita del calcio che ci piace, questa è la rivincita delle gestioni societarie che ci piacciono. Io ascolto sempre la tua trasmissione e ricordo bene i paragoni che sono stati fatti fra i bilanci del Cesena e l'acquisto di un solo giocatore da parte di una grande società. È la dimostrazione, non gradita a tutti evidentemente ai piani alti, che si possono fare cose importanti persino col cervello. Curioso che siano Campedelli gli uni e gli altri al fine. I due Campedelli, certo. Ora è chiaro che il Cesena ha avuto due battute d'arresto, devo dire è stato anche abbastanza sfortunato, però c'è un progetto squadra, un progetto città, che sicuramente porteranno molto lontano e che comunque stanno fornendo un esempio straordinario a cui il calcio dovrebbe attingere. Non per nulla, quando si parla di fair play calcistico, si dimentica che ci sono alcune società, persino in Italia, che questo fair play, certo, l'hanno sempre applicato. Senti, ascoltiamo un intervento campione. E, insomma, Franco Piantanina di là ha sorteggiato e ha vinto Antonio dalla provincia di Venezia. Buongiorno Antonio. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo porle così alla sua attenzione, da esperto insomma di calcio, una questione tecnica che coinvolge secondo me da troppo tempo la Roma. La società ha fatto degli investimenti mirati, anche spendendo del denaro in una situazione economico-finanziaria molto difficile, e tutti quanti gli esperti la additavano quale, come dire, antagonista in primis dell'Inter e anche in Europa insomma con una delle favorite anche per, non dico per la vittoria finale della Champions, però per arrivare sicuramente a fare bella figura. Io noto da sei partite che la Roma è succube, mi perdoni, è una provocazione, ma un po' del personaggio, dell'idolo, dei tifosi e dello spogliatoio, il Capitan Totti. E sì, così le volevo chiedere, è una provocazione, secondo lei la rinascita della Roma può ripartire dall'esclusione di Totti dall'11 titolare? In questo momento direi di sì, in questo preciso momento. In assoluto sono convinto di no, però visto che Marino è ancora con noi, risponde lui prima di salutarci. Io sono convinto come te che Totti sia forse il più grande talento in attività in questo momento nel calcio italiano, che come tutti i giocatori che hanno superato una certa età vada gestito con molta intelligenza e con grande concordia con quello che è lo spogliatoio e con quello che è l'allenatore, concordia che in questo momento non vedo. Per cui può essere vero a livello accademico che si può ricominciare da senza Totti, ma se si vuole portare avanti un progetto ci vuole Totti in quella squadra. Temo che ci sia un discorso di compatibilità fra Totti e l'allenatore in questo momento, e come abbiamo detto prima, quando ci sono queste incompatibilità non salta mai il capitano. Tanto meno in una piazza come quella e con le mostrine e le ferite sul petto. Ma anche nel Milan di Rivera, che ma è esattamente sì, la stessa cosa. Senti, io chiuderei questa fase con il seguente messaggio. Che bello sentirvi insieme, penso a quando c'ero io dietro al vetro a passarvi le telefonate. Firmato Fabio, non c'è il cognome, ma è Tavelli evidentemente. No? E quindi... Anche noi abbiamo molta nostalgia per quel gruppo di ragazzi straordinari. Marino, grazie, torna a trovarci presto. Molto volentieri, questa è casa mia. Ecco, bravo, bravo. I mercati. Tra le curiosità statistiche che Franco Piantalide mi segnala ogni lunedì, no, ogni giorno per la verità, ma il lunedì in particolare, ce n'è una strepitosa, che è questa. La classifica delle squadre che più sono peggiorate rispetto allo scorso anno sono Fiorentina meno 8, Sampdoria meno 8, Udinese meno 7 e Juventus meno 6, perché la Juve l'altro anno partì fortissimo. Bene, la classifica di un anno fa in testa era esattamente questa: Sampdoria 15, Juventus 14, Fiorentina e Inter 13, Udinese 11. Che vuol dire davvero la Serie A alla rovescia. Alla rovescia anche perché in testa c'è una Lazio che lo è con pieno merito, e allora direi, proprio come omaggio, prima di dare il là ai vostri interventi, di sentire un contributo di Rei. Noi bisogna arrivare ai 40 prima di fare altri discorsi, no, niente, a parte gli scherzi, ragazzi, oggi hanno disputato una grande gara, abbiamo battuto un grande Brescia che ci ha messo in difficoltà, la squadra ben organizzata, ha spinto sulle zone laterali, noi abbiamo chiuso molto bene, mi ha rischiato pochissimo, e poi con questi giocatori quando ti inventano qualche cosa, l'abbiamo provato anche durante la settimana, queste penetrazioni centrali senza palla, che poi Mauri è un maestro sotto questo punto di vista, e abbiamo sfruttato questa opportunità che ci ha concesso il Brescia. Questo risultato e questa classifica i miei ragazzi che dall'inizio di questo campionato, ma anche in preparazione, non hanno mai mollato una virgola. Gratificazione giusta. È un campionato in cui c'è una robusta componente di centro-sud nella parte alta della classifica, perché insieme a Inter e Milan alle spalle della Lazio c'è anche il Napoli. Allora, il commento su questa vittoria napoletana da parte del primo firmatario dei gol di ieri alla Roma, cioè di Hamsik. Era importante vincere in casa, sbloccarsi, però il campionato è solo iniziato, ora stavo vedendo la classifica e è molto corta, è ancora presto parlare. Questa è stata la terza settimana consecutiva che giocavamo tre partite in una settimana, è stata una partita molto combattuta, bella, divertente per i tifosi e ancora è più bello che abbiamo vinto. Beh, divertente anche per Hamsik, perché sta attraversando un grande momento di forma, non è una novità, ma insomma, semmai è una conferma ad alto livello di un giocatore davvero completo. Mario, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Ciò Garanzini. Volevo fare una premessa prima del mio intervento. Mi ricordo della sua rubrica qual era stata la partita più bella secondo noi ascoltatori, ed erano venute fuori delle partite. Volevo sapere lei cosa ne pensa della partita di ieri sera. Io le dico, da esteta del calcio, che rimpiango Scala, Sacchi, Zeman, che secondo me è stata una partita bruttissima. Volevo sapere, secondo lei, cosa ne pensa? Grazie. No, bruttissima no, certamente no, non bella come si affannavano a ripetere nella telecronaca di Sky, io l'ho seguita da lì, dato che ogni 10 minuti dice ma che bella partita, ma che bella partita, era la prova del 9 che non era una gran partita, su questo non c'è dubbio, perché un minimo di piazzismo nei telecronisti di oggi indubbiamente c'è, ma nemmeno però come lei dice, nel senso che... tolto l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 10 minuti in cui tutte e due le squadre erano stanche, non si può neanche dimenticare che l'Inter aveva giocato in Coppa mercoledì, ma la Juventus in una partita ancora più dura il giovedì sera, avendo poi un rientro notturno mattutino non so bene in aereo, quindi era ovvio che a un certo punto ci fosse un calo, ma fino ad allora, nei limiti delle loro possibilità attuali, che per la Juventus sono più organici e per l'Inter sono più contingenti, legati anche ai fortuni, abbastanza continui mi pare, questo è un altro segnale negativo per la stagione, insomma senza creare questo grande numero di occasioni, però era una partita che se anche finiva 1-1 o 2-2 non ci sarebbe stato nulla da dire, non perché le occasioni siano state molte, ma perché sono state abbastanza nette, cioè il gol che si è mangiato Maicon di testa è colossale, è il limite del credibile, e quello di Milito, considerando Milito pure, perché era Milito, ma almeno Milito ha l'attenuante di aver agganciato il pallone con una magia e di aver poi sbagliato il tiro, ma Maicon da lì di testa sbagliare è praticamente impossibile, e su Quagliarella ci è voluta una grande parata di Julio Cesar, e sul fuorigioco di Iaquinta ci è voluta la dabbenaggine di Iaquinta, perché lì veramente un passo indietro era gol lo stesso, no? Si capiva che era davanti alla linea del pallone, insomma brutta come dice lei, certamente no. Luigi Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io mi riallaccio ai discorsi su Ranieri, tutto vero, tutto bello di questo tecnico, però forse bisogna fare attenzione che esistono sempre due Ranieri, mi riferisco a quello della prima stagione e quello della seconda, ovunque sia andato, se guardiamo la sua storia di tecnico, è successo a Napoli, è successo a Valencia, è successo a Firenze, è successo alla Juve, sta succedendo alla Roma, benissimo la prima stagione, male la seconda, e ho sentito anche un'intervista qualche anno fa di Ferlaino, dove faceva riferimento a delle cose che erano successe, e al suo modo un po' particolare di tenere lo spogliatoio fino a spaccarlo. Beh, questa del secondo anno di Ranieri sinceramente non ci avevo fatto molto caso, adesso bisognerebbe più o meno ricostruire non per mancare di fiducia a quello che lei ci racconta, ma insomma mi pare che l'abbia semplificato un po' lei il percorso, soprattutto per quello che riguarda episodi, esperienze che ricordo abbastanza recenti, però potrebbe esserci del vero. Di sicuro la differenza che c'è tra il Ranieri dello scorso anno è questa, è netta, e non chiama in causa soltanto i risultati, ma direi proprio una gestione probabilmente ambientale, alcune scelte, ma anche una gestione di se stesso, no? del suo modo di porsi, che sinceramente è abbastanza profondamente mutata. Ezio ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei e buon compleanno alla trasmissione. Grazie. Una cortesia, argomento Inter, due tipi di argomenti, uno riferito al schema, famoso schema che ormai si riferisce, si legge continuamente e che credo che sia un problema effettivamente concreto, perché a seconda del tipo di squadra con cui giochi, a seconda dell'organizzazione del tuo avversario, il modulo adottato dall'Inter in modo abbastanza, come dire, convinto da Benitez sia un po' la causa dei problemi, sia fisici, perché poi il correre tanto crea una serie di problemi anche fisici, e sia soprattutto di equilibri, perché poi non è ancora stato trovato l'equilibrio corretto a centrocampo. Ieri sera si è dimostrato che basta una palla persa, ed è successo 2 o 3 volte, la difesa viene presa in velocità e tutta una serie di problemi, ma soprattutto la gestione delle punte, non solo Eto'o, come dicono tutti, vicino alla porta, ma anche la scarsità di alternative con la partenza di Balotelli fa sì che se tu giochi con 2 punte puoi avere Pandev come valida alternativa perché non è un'ala, mentre è un'ottima seconda punta, eccetera. Lo stesso Biebieni non è un'ala ma un'ottima seconda punta e così via. Mentre invece l'aspetto legato alla gestione della squadra o dello spogliatoio, diceva prima il dottor Bartoletti, notando l'assenza purtroppo di Oriali, chiaramente Benitez si sarà affidato al proprio staff, e qua ci sta, ma è chiaro che crea una mancanza, o meglio, un cambiamento di equilibri all'interno dello spogliatoio, dei raccordi tra la società e spogliatoio, che in questo caso non sono probabilmente ancora consolidati e gli equilibri non sono ancora adeguati. Può essere. Io metterei un po' di tutto questo, ci metterei anche dell'altro comunque, nel senso che Benitez aveva pur avanzato le sue richieste, poi magari inizialmente queste richieste erano anche un po' abbondantine, mi sembra che fosse disposto a ridurle, si sarebbe alla fine discretamente accontentato di qualcosa, ma insomma rispetto allo scorso anno la squadra oltre ad avere un anno in più e oltre ad avere il complesso di sazietà che è inevitabile in questi casi, ha anche un pezzo di quelli che contano in meno, ma insomma credo che anche questo vada tenuto presente. Sto leggendo molti messaggi interessanti, per esempio Vincenzo da Napoli ricorda che anche il Napoli ha giocato giovedì sera con rientro in nottata da Bucarest e con la Roma non si è notata la differenza di due giorni di riposo a favore di quest'ultima, anche perché Vincenzo, la Roma secondo me è in condizioni atletiche pessime, ma veramente pessime, e ancora oggi non riesco a capire come abbia fatto a fare quel finale di partita contro l'Inter, perché quella è stata l'eccezione di una regola che invece l'ha sempre vista sulle gambe nei secondi tempi di quest'anno. Pietro ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io abito a Milano, sono tifoso della Roma, quindi volevo dire che quello che rappresenta Totti per noi che abitiamo fuori da Roma e tifiamo Roma è più forte di quello che rappresenta per quelli che abitano a Roma. Però volevo dire che secondo me ha ragione Marino, come diceva prima, cioè si può ripartire senza Totti, ma nel progetto ci deve essere Totti per forza, perché per me è imprescindibile. E poi volevo fare complimenti alla Lazio, non capisco perché i tifosi laziali contestano lo Tito, li ha salvati, li ha fatti vincere, c'è una bella squadra, è un progetto che va avanti da qualche anno e si vede che c'è, non capisco come fanno veramente certo a contestarlo veramente. Salve, grazie. Grazie a lei. Pietro, ultimo intervallo di oggi per le strade. A proposito di inesattezze o di fesserie, che dir si voglia, l'amico Luigi, che ha chiamato prima da Napoli, ci diceva, ci raccontava del declino ineluttabile di Ranieri nel secondo anno, eccetera. Allora, Ranieri alla Juventus è arrivato terzo il primo anno e secondo il secondo anno, nonostante l'esonero finale con Ferrara, vergognoso tuttora, due giornate dalla fine. A Valencia il primo anno la sua squadra si era piazzata nona, il secondo anno quarta con la vittoria in Coppa del Re, cioè la Coppa di Spagna. La sua escalation al Chelsea era stata invece sesto, quarto e secondo. Questo tanto per sistemare un luogo comune. Che poi i Ranieri di quest'anno lasci perplessi, sono d'accordo anch'io. Ma che da lì si debbano inventare dei dati e telefonarli pubblicamente, insomma, ci vuole quel discreto fegato che ogni tanto qualcuno ha. Ieri sono stati segnati 14 gol soltanto, che sono di gran lunga il minimo stagionale. Allora sentite un po' che cosa ha scovato a proposito del giorno 4 ottobre, che cosa ha scovato Nicola Filippone. Sembra ieri. 4 ottobre 1992. Nella quinta giornata del campionato di Serie A vengono messi a segno 48 gol con una media di 5,3 a partita. Si tratta del nuovo record per la Serie A a 18 squadre. 10 di queste reti vengono segnate a Firenze, dove il Milan capolista batte i Viola per 7-3 con doppiette di Gullit, Van Basten e Massaro. Il record assoluto di gol in Serie A risale invece alla 38esima giornata del campionato a 20 squadre 50-51 con 54 realizzazioni. Però, e se vogliamo risalire più indietro ancora, era scattato proprio il 6 ottobre 29 il primo campionato di Serie A girone unico, che è la formula, no? che ancora oggi è praticata nel nostro paese, sia pure a 20 squadre, con insomma una piccola anomalia rispetto alla media storica degli anni. Paolo ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Garantini. Dica. Il mio intervento era, diciamo, una richiesta di una sua opinione. Premetto che io sono un incompetente di calcio, però quando l'altra sera ho visto Ibrahimovic che ha sparato la palla tre volte di seguito addosso al portiere, mi è venuto in mente quello che mi si diceva quando ero bambino, io giocavo nei pulcini così, insomma, cioè che il vero fuoriclasse la differenza la fa quando è da solo davanti al portiere. Ora, averlo visto in quella maniera, aver visto un giocatore di quel calibro, di quella considerazione, che ha sparato tre volte la palla davanti al portiere, non so. E poi un'altra osservazione che si ricollega a questa, non so, ma nel calcio mi pare che giocatori di quella statura, nel senso proprio di centimetri, ma di grande valore, io non ho mai, se mi ricordo quando ero bambino io c'era un certo Rubisch della nazionale tedesca, forse prima c'era Charles nella Juventus, ma mi sembra che un calcio, i veri fuoriclasse debbano per forza avere un'altezza non superiore all'1,80, insomma. Questa è la mia considerazione da profano. Da profano. Paolo, facciamola da profano, va, mettiamola così. Il calcio è bello ed è lo sport più universale del mondo, perché si può essere campioni o fuoriclasse sia essendo alti come Ibrahimovic, sia essendo piccoli come Messi. Non c'è nessun tipo di limitazione. Ci sono altri sport di squadra, non sto nemmeno a nominarle, tanto è facile, che se non hai una determinata complessione fisica proprio di partenza, non solo non emergi, ma non puoi giocare, non è che non puoi competere, non puoi presentarti. Il calcio ha questo di bello, che il calcio è per tutti, è per chi ha il 47 di piedi ed è un lungagnone come Ibrahimovic, e per chi invece è addirittura ha dovuto far ricorso all'ormone della crescita, come lecitamente, per l'amor di Dio, nell'età dello sviluppo, come Leo Messi, che è il più grande di tutti in questo momento, ma il più piccolo grande di tutti, come sono piccoli Xavi, come sono piccoli Iniesta, Pedro, Messi. Eppure questi quattro nanerottoli, li chiamo così con affetto e ammirazione sconfinata, sono tra i migliori giocatori del mondo. Come lo è Ibrahimovic, con il suo fisico da pertica addirittura, che l'altra sera ha tirato tre volte addosso a Mirante, anche perché è stato bravissimo Mirante. Io l'altra sera ho visto veramente un grande portiere, perché se alla fine del primo tempo, anziché Mirante, ci fosse stato in porta un portiere normale o non in serata di grazia, il Milan probabilmente era sopra i 3 o 4 gol. E invece Mirante ha salvato la sua porta in molte circostanze, comprese quelle in cui è stato bravo a stare in piedi. E non c'è dubbio che Ibrahimovic non sia stato perfetto nel non trasformare uno dei primi due tentativi, direi il primo, il terzo poi era il terzo non c'entrava più, insomma, era una ribattuta da flipper a quel punto. Da Pisa ha chiamato Marco, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare gli auguri, anch'io sono ascoltatore della prima ora di alle 24. Siete nati insieme ai miei bimbi, sicché i miei gemelli, sicché crescete insieme. Niente, la domanda era su, visto la Fiorentina ieri, sono tifoso la Fiorentina, ho visto dei grandi giocatori nel Palermo, specialmente questo Ilic, Bacinovic e va bene Pastore, e come non capisco le società come vanno a cercare tante volte giocatori vecchi o cioè vecchi, magari nomi attitudinanti, quando ci sono giocatori bravi così e giovani. Complimenti a Palermo. Vero. Il gol che ha segnato ieri lo Slavo, per esempio, Ilicic è un gioiello, insomma, non è il primo di quest'anno, ma certamente se il gol di Pirlo, secondo me, vale, non so, 10, 9 e mezzo in pagella, questo vale tra l'8 e mezzo e il 9, perché comunque è una prodezza assoluta anche la sua. Ci ha provato poco prima. Il Palermo ha molti ragazzi di talento e Delio Rossi lo ripete in continuazione che si sta sforzando innanzitutto di far maturare questa squadra, che oggettivamente è giovane, ma è giovane di grande qualità, perché la qualità anche di Ilicic, ma soprattutto di Pastore e di un paio di altri davanti, è veramente fuori discussione. Paolo Vicenza, buongiorno. Buongiorno, stavamo parlando di giocatori alti, ecco, io e diverse persone ci stiamo chiedendo come mai Dia Quinta possa giocare titolare nella Juventus, come possa aver fatto il mondiale da prima punta, eppure ci sono diversi allenatori che continuano a credere in lui, ma io ogni volta che lo vedo giocare sono allibito, ma proprio costernato, non stoppa una palla, non fa un movimento giusto, la Juve giocherebbe meglio in 10 piuttosto che in 11. Ecco, volevo sapere la sua opinione. La mia opinione è che è che quando al bar sport ogni tanto si vuole esagerare si fanno questi discorsi qua, no? Se vogliamo parlare della raffinatezza di Iaquinta, beh, sfondiamo una porta aperta. Se vogliamo parlare effettivamente in certe fasi del suo modo di stare in campo, non c'è nessun dubbio, ma se vogliamo levare il patentino degli allenatori a gente come Lippi, per esempio, che lo portò al mondiale, a gente come Del Neri che lo sta allenando adesso, a tutti quelli che lo hanno allenato e cercato in questi anni, cioè, io tra tutti questi signori che fanno quello di mestiere e quelli del basport che si stupiscono perché gioca a calcio, beh, insomma, sto dalla parte dei primi, no? Per un fatto di competenze, questo senza per questo mancare di rispetto a lei, ma anche per evitare di mancare di rispetto a un professionista come Iaquinta. Bene, mi pare che anche questa puntata di compleanno, l'undicesimo di Radio 24, 4 ottobre, giorno di San Francesco, allora era il 99, oggi è il 2010, mi sembra che anche questa sia conclusa. L'appuntamento dunque a domani, dopo aver ringraziato Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanida in redazione e la levatrice Marino Bartoletti per la sua partecipazione a questo appuntamento. Buon pomeriggio. Tempo di sport.